pastiglie, finestre a sbarre, angeli stanchi ci volano intorno con i camici bianchi. Ho nella testa pellicole strane, taglio i sogni come fette di salame. Forse dormo, sono sveglio, qui non posso fare di meglio. Manicomi, demileggi insieme al demoni. Manicomi, ormai sei matto, basta problemi. Manicomi, tante barche senza remi. Manicomi, chi ve la dice è sempre scemi. Teste rasate, mille punture, siamo agli occhi delle nostre paure. Da ieri, nelle urla dei nostri pensieri, vengono a trovarci, non sanno più chi siamo, vengono a trovarci, non li conosciamo, vengono a trovarci, non sanno cosa dire, parlano strano e non possiamo capire. Manicomi, demoni insieme al demoni. Manicomi, ormai sei matto, basta problemi. Manicomi, tante barche senza remi. Manicomi, chi ve la dice è sempre scemi. Nascosto con la luna, mai al suo posto. Uomini pianta, avanzi di guerra. Uomini foglia, sdraiati in terra. Occhi persi, senza colore. Occhi persi dall'odio, dall'amore. Nella mia testa c'è un grande via vai. Nella mia testa non entrerete mai. Manicomi, demileggi insieme al demoni. Manicomi, manicomi, demileggi insieme al demoni.